GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Dall'amarezza del Milan alla notte europea più bella per la Roma, che fa saltare il Bernabeu. 2-1 per i giallorossi su un pessimo Real Madrid. E la certezza comunque è che l'Italia sarà presente nei quarti di finale di Champions League. Il servizio. Nel calcio degli epiteti spropositati e della divinizzazione del normale, la Roma si guadagna al Santiago Bernabeu un pezzo di storia. Forte del 2-1 dell'andata, la squadra di Spalletti avrebbe potuto accontentarsi di un pareggio. La realtà è stata ben più rosea di ogni aspettativa e ha portato i giallorossi ai quarti di finale, passando dalla porta principale, grazie al 2-1 firmato Taddei e Vucinic. Gara corta di Totti e compagni sin dall'inizio. Il Real vorrebbe sbloccare subito il risultato per giocare sul velluto. La Roma è brava a rispondere colpo su colpo, chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa sale la pressione merengues, ma si dilatano anche gli spazi inevitabilmente concessi dietro dal Real. Spalletti azzecca la mossa dell'anno, dando fiducia a Vucinic al posto di Mancini a meno di mezz'ora dalla fine, e la partita cambia volto. Il montenegrino propizia con una grande giocata il secondo giallo e la conseguente espulsione di Pepe. Poi nel giro di 2 minuti la Roma passa in vantaggio. Stecca il contropiede per chiudere la gara e viene raggiunta sul rovesciamento di fronte da Raul. 1-1 a un quarto dalla fine. Assedio del Real, la Roma traballa ma tiene botta fino al 92esimo, quando Vucinic trova il colpo di testa della vittoria. Guglielmo Timpano, GR24, sulle 24 ore, Madrid. Ora tutta la gioia romanista nelle parole di Luciano Spalletti e di Daniele De Rossi. I ragazzi secondo me hanno fatto una partita perfetta e di conseguenza ora devono godersi poi questa felicità condivisa poi con questo eccezionale pubblico che ci ha seguito anche fin qui a Madrid. Noi siamo consapevoli di essere un'ottima squadra, se no non si arriva fra le prime 8 di Europa per 2 anni di seguito, e poi insomma per arrivare fino in fondo, fino a Mosca e far succedere l'impossibile, diciamo, c'è molta strada da fare, ma noi ci crediamo e questo successo ci darà ancora più fiducia. Il mercoledì di Champions League ha promosso ai quarti anche il Chelsea, che ha battuto 3-0 l'Olympiakos con i gol di Ballack, Lampard e Kalou. Passa anche lo Schalke 04 vincendo in trasferta ai rigori con il Porto. Il giorno dopo in casa Milan, una sola certezza per il futuro. Secondo Adriano Galliani, si riparte da Carlo Ancelotti. Non credo che sia finito niente ieri sera. Semplicemente è successo quello che è successo negli ultimi 4 anni ai campioni d'Europa. Campioni in carica, si vede che devono uscire negli ottavi di finale. Tutto qua. Carlo Ancelotti rimarrà comunque in ogni caso sulla panchina del Milan. L'avevo detto dopo Liverpool, dopo cioè Istanbul con il Liverpool. Nessuno ci credeva, ma tant'è, insomma, poi il tempo è galantuomo, come si diceva una volta. Il sogno di Adriano Galliani è molto semplice, è quello di disputare la Champions League edizione 2008-2009. Cambiamo argomento, Siena perde a Belgrado e rinvia l'appuntamento con la qualificazione ai quarti di finale dell'Eurolega di basket. Dopo aver vinto le prime 3 partite, la Montepaschi cade alla 4ª giornata, 78-75 sul campo del Partizan, dopo una partita sempre in equilibrio. Tra i senesi, 16 punti di McIntyre ed Eze, match winner per il Partizan Palacio con 26 punti. Il CT della nazionale italiana di rugby Nick Mallet ha annunciato ieri 4 novità nella formazione che domenica sfiderà la Francia a Parigi nella 4ª giornata del Sei Nazioni. Torna all'ala Kane Robertson, che ha recuperato dall'infortunio. In seconda linea riecco Marco Bortolami, che non gioca titolare dalla Coppa del Mondo di settembre. Andrea Lo Cicero vestirà nuovamente la maglia numero 1. Per il pilone azzurro sarà la presenza numero 75. In terza linea, infine, Alessandro Zanni prende il posto dello squalificato Mauro Bergamasco. È tutto per GR Sport di questa mattina. Di nuovo buona giornata.